ha un profumo di campagna, uè, la mia bocca porporina, li oile, li oile, li oila. Con la bella tirolese, trullalai, iu, trullalai, iu, trullalai, iu. Ho lasciato il mio paese, trullalai, iu, trullalai, iu, trullalai. Ma se un bel dì lassù ritornerò, oh, oh, oh, oh, chissà tutta la gente che dirà, ah, ah, ah, ah, con la bella tirolese, trullalai, iu. Chi mi vuole, chi mi brama, uè, non si compera il mio cuore. Io le, oliola. Voglio darlo a chi mi ama, uè, voglio vivere d'amore. Io le, oliola. Con la bella tirolese, trullalai, iu, trullalai, iu, trullalai, iu. Ho lasciato il mio paese, trullalai, iu, trullalai, iu, trullalai. Ma se un bel dì lassù ritornerò, oh, oh, oh, oh, chissà tutta la gente.